Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, benvenuti. Luca Tremolada al microfono, Luca Dello Iacovo in sua compagnia. Buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi due puntate, cioè ne facciamo una e lanciamo anche la seconda, dedicati a internet. Prendiamo spunto da cara vecchia internet. Vai sul sito www.verità, che è l'articolo che avrete trovato domenica sul Sole 24 Ore, a firma di Gianni Riotta, il direttore del Sole 24 Ore, che trovate anche oggi sul sito del Sole, che insomma ha un po' smosso le acque, ha scaldato la blogosfera. Insomma, il pezzo di Riotta prende spunto dall'ultimo libro di Jaron Lanier, dico bene, è pronunciato giusto? Speriamo di sì. Lo ricorderete, uno dei pionieri della realtà virtuale, quello che negli anni 90 aveva inventato un po' il guanto, quello virtuale. Ebbene, lui nel suo ultimo libro si interroga su dove stia andando la discussione su internet, su quello che è il tema della qualità dei contenuti su internet. E anche poi il tema delle discussioni, cioè internet diventa appunto un grande calderone. E quando poi, soprattutto chi naviga spesso su internet, cerca qualcosa, lo cerca attraverso Google, arriva su Wikipedia, e quello è considerato un punto di arrivo. Ma è davvero un punto di arrivo quello che c'è scritto su Wikipedia? Può essere davvero considerata la verità? Sì, i temi sono quelli di sempre, sono i temi della qualità, i professionisti e i dilettanti, diciamo gli ultra, quelli che insomma sulla rete stanno solo per insultare o che quantomeno cacciano un sacco di palle, e invece chi invece sulla rete prova a fare anche un'informazione, ma non solo un'informazione di qualità. Allora, trovare il giusto mezzo, insomma trovare un equilibrio tra l'istanza libertaria della rete, da un lato il fatto che è uno strumento a disposizione di tutti e dovrebbe essere uno strumento in grado di elevare i nostri animi e il nostro portafoglio, perché c'è anche un ragionamento di business importante. E magari poi fin troppe persone si fanno scudo, diciamo, dell'anonimato per poi scrivere quello che vogliono. E sì, da qui il www.verità, nel senso che l'altro tema che viene sollevato è il punto che di fatto l'anonimato è uno dei grandi, degli antichi problemi della rete: chi c'è dietro determinati blogger, quali sono gli interessi che li muovono, e chiaramente un'informazione è anche legata dalla persona che la pronuncia, cioè un'opinione. Noi vogliamo però oggi dar conto innanzitutto di questo dibattito. Ogni tanto Luca Dello Iacovo magari va a vedere sulla blogosfera, su Twitter, che cosa si sta dicendo, i commenti che stanno arrivando, le riflessioni, ma guardare anche all'aspetto, diciamo, alla natura più economica del passaparola, anche perché la discussione su internet di fatto è il passaparola, è il social network, è il web 2.0. È quello che rimbalza da un sito all'altro e che dà credibilità poi anche a quello che si dice. Quindi una cosa diventa importante poi alcune volte se molte persone ne parlano e se la giudicano. Abbiamo in collegamento, avremo in collegamento un po' di imprenditori del web, di... che grazie poi al passaparola hanno costruito, diciamo, dei business, perché su internet è uno strumento chiave per avere successo e ha costruito, e alcuni hanno costruito dei veri e propri successi imprenditoriali. Per esempio Matteo Sutto è marketing manager degli Affidabili, che gliaffidabili.it sembra proprio preso a pennello per la questione. Buongiorno Sutto. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo preparato per lei una breve scheda che insomma racconta chi è, quello che fa, cosa vuol fare nella vita, che cosa fanno gli affidabili, poi vediamo di svilupparlo nel corso della puntata. Il social network Gli Affidabili è simile alle pagine gialle, ma a scrivere le inserzioni sono gli utenti. Si tratta di una guida per trovare idraulici, avvocati, docenti privati. La differenza con le pagine gialle è nei voti della community. Ognuno può valutare la prestazione del servizio con un punteggio da 1 a 5 stelline. Ogni persona, inoltre, può scrivere un commento per raccontare la sua esperienza. Il sito web è stato lanciato nell'aprile 2008 ed è gestito da un team di 4 persone. Ha vinto il concorso Mind the Bridge. Il premio è stato un'esperienza di 6 mesi in Silicon Valley. Ma i primi passi del sito web sono stati un'avventura. I fondatori hanno contato unicamente sulle proprie risorse. In seguito hanno ricevuto il finanziamento di un angel investor. E ora sfidano le pagine gialle puntando sul passaparola della loro community. Matteo Sutto, 27 anni, è l'ultimo arrivato nel team. Ha una laurea in economia e un'esperienza di lavoro per la banca d'affari Rothschilds. Allora, Sutto, partiamo dal tema che sta in questo momento un po' muovendo la rete, anche se è una pessima espressione muovere la rete. Il tema della qualità su internet, che poi ha delle vibrazioni anche che si percuotono sull'aspetto di business della rete. Qual è il suo pensiero in merito? Allora, il mio pensiero, che poi anche il pensiero degli altri soci che hanno costituito gli affidabili.it, è quello che internet è comunque uno strumento incredibile per permettere a chiunque di poter meglio valutare, fornisce gli strumenti per poter meglio valutare la qualità di un bene, di un bene fisico, di un servizio nei nostri casi. Certo è che vi è sempre la problematica della reale qualità dei feedback o delle recensioni di questi beni o di questi servizi. Quello che però dimostra le esperienze di successo passate di casi come per esempio eBay o la stessa Wikipedia è quella che sui grandi numeri comunque alla fine prevalgono sempre appunto la qualità. Come se vediamo per esempio eBay, vi sono sempre dei casi in cui qualche utente simpaticone della domenica si mette a scrivere feedback. Ecco, ricordiamo che eBay è un'asta online dove esatto. Chiaramente si comprano e si acquistano dei beni di più svariata natura. Che cosa succede? Succede che nel momento in cui io voglio tirare una truffa, tirare un pacco insomma all'utente, metto in vendita un bene e provo insomma a fregare. Chi è che, qual è il sistema, qual è la prova del 9 che mi consente di affidarmi a eBay? Il fatto che insomma ogni utente che vende oggetti, cose su eBay viene valutato da altri utenti. Il che cosa esatto. Significa? Che se una persona non ha le migliori intenzioni viene scamata subito, viene subito individuata. E questo è un po'... diciamo la chiave del social network e di moltissimi servizi di social network, che appunto si appoggiano sui giudizi degli utenti. Cioè l'idea di fondo è che il giudizio della maggior parte delle persone che stanno in rete saprà averla meglio su pochi facinorosi. Ma c'è anche qualche eccezione però, Luca, come per esempio Craigslist, che è questo grande sito americano dove vengono pubblicati gli annunci. E ci sono dei problemi per chi è invaso da annunci che erano pornografici oppure non sono pertinenti rispetto alle richieste, e quindi c'è questa grande massa di informazioni dove le persone poi si perdono, cioè ci si perde tra gli annunci perché sono troppi e perché non sono legati poi lo strumento diventa da opportunità diventa un qualcosa di inutilizzabile, che è un po' quello che traspare anche dall'articolo di Riotta. Cioè, Sutto, lei è proprio convinto che poi alla fine della fiera la rete da sola, endogenamente, cioè attraverso meccanismi endogeni, possa risolvere viene da parlare di mele marce, ma non sono mele marce, perché poi di fatto internet è lo specchio della realtà, come c'è gente che scrive sui manifesti o che fa le telefonate eccetera eccetera, così anche sul web esistono, non c'è una gran differenza. Ma guardi, la risposta è decisamente sì, per questo semplice motivo, che stiamo assistendo a una integrazione sempre maggiore tra quello che sono per esempio i motori di ricerca quali Google e veri e propri social network quali Facebook o siti di microblogging quali per esempio Twitter, e quindi questa complementarietà, questa integrazione tra questi vari mezzi fa sì che i risultati che si trovano vengono alla fine pesati per le relazioni, per chi ha detto qualcosa, quindi per la relazione che vi è tra la persona che ha commentato, che ha rilasciato il feedback e il proprio social network. Quindi io, per esempio, porto l'esempio degli affidabili.it, vado a controllare le recensioni che ha ottenuto un idraulico o un avvocato del caso e vedo che la persona che ha rilasciato tale feedback è distante dal mio social network solamente per esempio un grado, oppure vi sono delle persone all'interno della mia sfera di amicizia e contatti che hanno rilasciato un determinato feedback, quindi starà poi a me pesare in un certo modo il feedback rilasciato da una persona totalmente sconosciuta o da una persona che rientra appunto nella sfera dei miei contatti. C'è Teo da Milano che ci sta scrivendo. Io ricordo il numero verde 824 0024 e gli sms 349-238-6666 che dice sì, beh, però insomma se un gruppo nutrito di persone si mette d'accordo e manda feedback falsamente positivi può riuscirci. Ma allora teoricamente diciamo che teoricamente tutto è possibile, chiaramente, per la natura stessa democratica della rete e nel caso specifico degli affidabili.it. Nel nostro caso abbiamo sviluppato diverse strumenti, diverse metodologie per fare in modo che tale possibilità sia ridotta praticamente al nulla, quali per esempio controlli a campione, o abbiamo sviluppato internamente un algoritmo che fa in modo che determinati feedback. Quindi possano c'è una aiutare... risposta tecnologica, esatto, lei sta dicendo, esatto, cioè la tecnologia esatto. risolve i problemi di coda lunga, cioè di pochi o molti, poi non sono neanche tanto convinto che siano poi poche le persone che non siano come nel Signore degli Anelli caotici, di ordinamento caotico, che poi vanno sulla rete per seminare zizzagno, per creare discordia. Ecco. Ma Sutto, voi lo usate gli affidabili.it? Assolutamente sì. E che cosa usa? Qual è l'ultima cosa che ho usato? L'ultima cosa che ho usato, allora, cercavo un imbianchino per i miei genitori, tra l'altro non neanche per me, perché i miei genitori sono ancora abbastanza avversi alle nuove tecnologie, quindi ho dovuto fare da intermediario. Credo che sia, anch'io mi trovo in queste situazioni, sull'organizzazione dei viaggi di solito, cioè per quelli che si organizzano attraverso internet, vabbè. No, niente, avevamo appunto bisogno di un imbianchino nel caso specifico a Milano, in quanto abitano a Milano, e ci siamo fidati di un imbianchino che aveva già ricevuto 3 feedback sul nostro sito e l'abbiamo contattato e ne abbiamo approfittato anche chiaramente per fare in modo che allargasse questo passaparola. Ho capito, e arrivano anche però alcune volte delle proteste di feedback negativi rispetto poi alle persone che fanno parte del network degli affidabili? Guardi, per fortuna allo stadio attuale non abbiamo ancora avuto lamentele da parte dei vari professionisti, anche perché è data comunque ai professionisti la possibilità di rispondere ai feedback eventualmente negativi degli utenti, quindi sta sempre poi comunque alla persona terza capire quale delle due persone può avere o meno ragione, quale delle due persone ha fatto per esempio il furbo. Questo chiaramente vedendo una persona con X feedback contestati è chiaro che può venire il dubbio la persona terza, la veridicità o meno dei feedback ricevuti da... Ecco, io sono davanti al sito in questo momento, sì. E quindi ci sono due spazi. Uno è quello per, se ho capito bene, sì. Quindi uno è quello per pubblicare gli annunci, le richieste. Le cioè richieste, se io esatto. ho bisogno di qualcosa, pubblico la mia richiesta. Esatto. Dall'altro lato poi c'è la possibilità di offrire invece un servizio. Cioè se io sono appunto un idraulico, allora pubblico qui la mia richiesta. Diciamo, ecco, io per esempio se voglio trovare qualcosa, quindi come faccio? Scrivo, non so, idraulico e poi scrivo il posto dove si trova? Dove esatto, lo posso trovare? Sono due principalmente le possibilità date a chi cerca un servizio professionale. Quella di inserire una richiesta, quindi cerco idraulico, si sceglie la propria zona, l'orario e le modalità di richiesta e questa richiesta appare come fosse una bacheca di annunci dove tutti poi coloro che offrono tale servizio possono andare a vedere se vi è una richiesta corrispondente alla propria offerta. Ma chi mi dice che non sia il primo idraulico che viene fuori non è l'idraulico che ha pagato di più? Perché poi questo è il tema della trasparenza, che è quello più stringente, cioè nel momento in cui io inserisco una parola in un motore di ricerca, la mia prima domanda è: quali sono le regole? Cioè, esatto, in base a che cosa mi mette come primo risultato, che poi i primi risultati sono quelli più importanti, no? È qualcuno che paga di più ma è un gran cialtrone, ma l'unica cosa che ha è a potere finanziario per cui si permette di comprare la posizione all'interno della pagina, oppure... Guardi, allora, attualmente i risultati appaiono con un criterio esclusivo di merito, ovvero i primi risultati che appaiono chiaramente con una corrispondenza con categoria professionale e città sono solamente quelli che hanno ricevuto più feedback positive, quindi maggior numero di feedback e maggior numero di feedback positivi, quindi una media. Quindi sono quelli più votati dalle persone. Esatto, esatto, esatto. Però ci si potrebbe far votare anche da amici, per esempio. Al discorso che facevamo prima. Dello Jacopo è tremendo, non lo convinci neanche, devi provare. Adesso passerà tutta la notte a lavorare su, a mettere continuamente il nome, a vedere se il sistema è hackerabile da un certo punto di vista. Ma guarda, io penso comunque che appunto nella misura in cui c'è comunque un voto, ecco, delle persone, poi ecco è un tentativo di organizzare, no? di creare una fiducia, quindi quanta più gente c'è, poi tanto più è un po' l'idea di Wikipedia, quanta più gente c'è, tanto più dovrebbe essere difficile poi creare questo tipo. Però ecco, bisogna tenere presente comunque poi i rischi appunto che ci sono, perché altrimenti poi rischiamo di chiamare l'idraulico e poi ritrovarci con due tubi che scoppiano e non uno, e quindi non è una buona soluzione. Ecco, prima di cambiare argomento relativamente, però volevo chiedere una cosa a Sutto. Lei ha qualche ambito in cui non applica la forza di internet, che è appunto il numero, per appunto la possibilità di, da parte di tutti gli utenti, di decidere, di giudicare un determinato prodotto? Cioè, ci sono dei confini, ci sono degli ambiti in cui io mi posso affidare alla rete, quindi mi posso affidare alla moltitudine di utenti che in un certo senso mi guidano in un giudizio, in un acquisto, e ambiti invece in cui è ancora prematuro? Questa è una bella domanda, anche perché parla con una persona che è abbastanza drogato, addicted, come si dice in inglese, di tutto quello che è internet. Non fa testo, insomma. Cioè, non vorrei per che dire, per prendersi, non il proprio testo. No, per prendersi un oggetto, un gadget elettronico, piuttosto che qualcos'altro. Cioè, la prima cosa che si fa, che lei fa, è quella di cercare la rivista specializzata, o quantomeno, insomma, il contenuto di qualità di cui lei si fida, oppure di andare a vedere su internet, comparare o trovare il sito che fa le comparazioni dei prezzi, delle caratteristiche tecniche, cerca di fare una media tra i giudizi positivi e negativi? Guardi, direi quello che ha detto alla fine, ovvero cioè comunque sempre di ponderare tra siti che magari non conosco, che si affidano alla natura puramente democratica degli utenti e dell'utenza, e nel caso specifico conosca una rivista o una testata specializzata e di prestigio, cerco un attimo di pesare le due fonti. Il problema è qual è? È che adesso con lo sviluppo del mobile è ancora più facile poter controllare direttamente dal proprio cellulare la bontà o la qualità di un prodotto quando sono per esempio nell'atto del comprare il prodotto stesso. Quindi... Cioè, se ho capito bene, lei fa un confronto, avendo il telefonino in mano, confronta due modelli diversi quando è davanti alla vetrina, in effetti. Esatto, esatto. Ma lui non è l'unico, conosco un sacco di gente che opera così, ma li vedi anche quando entri nei grandi magazzini, che guardano dal cellulare, guardano l'oggetto, perché ce l'hanno davanti, poi non capisci perché lo guardano nel cellulare, che è anche più piccolo, mentre ce l'hanno davanti, però davvero c'è tutta una loro logica. Grazie Sutto. Grazie. Adesso raccontiamo un'altra storia, che è la storia di Luca Scani, fondatore di Go Advertising. Luca Ascani ha appena 20 anni quando inizia la sua carriera. Il primo passo è lo sviluppo in Italia di Buy Central, un motore di ricerca per lo shopping. Nel 2004 fonda Go Advertising con un capitale di partenza di 10.000 euro. È una piattaforma di informazione per la produzione di testi e video. La prima sede viene aperta a Roma. 3 anni dopo, Luca Ascani decide di quotare la sua azienda in borsa e arriva sul mercato senza finanziamenti esterni. Ma il 2007 è un anno d'oro per Ascani. Compra anche Excite, uno dei primi portali sul web. Adesso Go Advertising è presente in 10 mercati, inclusi Stati Uniti e Giappone. Il prossimo passo sarà il Brasile. I dipendenti in house sono 150 e nel 2008 ha raggiunto un utile di 5 milioni di euro. Nova Lab 24. Bentornati, rieccoci, Luca Tremolari al microfono, 16.32, cosa succede su Twitter, Luca Dello Jacopo? Guarda, c'è un commento di una iscritta di Twitter, Francesco Oliva, che rivolgendosi al direttore del Sole 24 Ore, Riotta, dice «Pensa davvero che il mondo del web sia così meraviglioso da poter escludere idiozia o ignoranza?» Luca Scani, la giriamo a lei questo tweet. Assolutamente, buongiorno innanzitutto, assolutamente no, e fa parte del web, perché il web è la cosa più rappresentativa di quello che sono le popolazioni di ciascun paese. Il nostro mestiere è proprio quello, siamo un nuovo editore online perché andiamo a analizzare quali sono i bisogni degli utenti a livello internazionale oggi, soprattutto ma in si Europa. Può però migliorare qualcosa con internet? Prima c'era la grande utopia: internet migliorerà sempre e comunque il mondo. Ecco, che cos'è che è cambiato adesso? Beh, l'interazione diretta fra le persone da un lato e fra le aziende e le persone dall'altro, quindi comunque semplifica, taglia una serie di persone o di realtà che intermediavano, ossia c'è un'intermediazione che è diretta, quindi questo contatto diretto, questa aggregazione che è fondamentale alla crescita e allo sviluppo di internet. Fenomeni come Twitter, per quello che è successo in Iran, o basta vedere quanto è stato ripreso adesso lo stato remoto che c'è stato in California, questo tipo di fenomeni mandano informazione diretta e sono assolutamente importantissimi e aiutano a migliorare quello che è il mondo. Ora, sì, però c'è un tema di trasparenza, prima ce lo stavamo domandando, sono arrivati un po' di sms, un signore ci racconta che lui ha arredato su eBay mezza casa, che si è trovato benissimo, soddisfatto, che insomma si fida dei feedback. Però abbiamo visto anche nel caso dell'Iran, e lo raccontava proprio Luca Dello Jacopo, insomma erano pochini i tweet provenienti dall'Iran, la maggior parte insomma erano americani, erano persone che risiedevano naturalmente in altri luoghi e che insomma partecipavano, supportavano quella che era. E quindi magari diventa anche un po' difficile, no? Distinguere bene la fonte o no. Cioè c'è un problema con le fonti? C'è un problema di filtri, cioè nel senso che bisogna saper filtrare quelle che sono le informazioni. Ora Twitter è un fenomeno che è nato 2 anni fa, quindi ancora non penso che la search di Twitter, che è poi quello che è la ricerca in tempo reale di cui adesso si sta parlando tanto, fosse il primo scopo di Twitter. Il primo scopo di Twitter è un po' diverso. In Iran comunque ha avuto il suo effetto, considerando poi che l'Iran è uno dei paesi con maggiore tasso di penetrazione dell'internet nella popolazione. Quindi comunque è molto molto usato come sistema per comunicare fra le varie persone. Ecco, ma dal suo punto di vista i filtri migliori allora quali sono? Visto che abbiamo questa grande massa di informazioni in cui è difficile, per chi soprattutto naviga poco su internet, è difficile capire bene che cosa è affidabile e che cosa no. Allora, i filtri migliori quali sono? Il nostro modello è proprio... Ecco, facciamo un passo indietro, Ascani. Cioè, sì. Partiamo, lei ha 20 anni, inizia la sua carriera, guarda la rete, ne rimane abbagliato e insomma decide di diventare un imprenditore della rete. Diciamo che sarò più la rete a prendere me che io la rete, perché ancora oggi non so fare una riga di HTML, non sono un tecnico, ho avuto l'opportunità di iniziare nel momento della bolla nel 2000 e quindi sicuramente ho sfruttato, surfato quest'onda. Ma hai pentito? No, non lo so. Beh, direi proprio di no. Sono contento. Poi nel 2007 compra Excite. Sì. Perché? Questa... Beh, perché era un'opportunità, c'era un modello di business che era come all'inizio dell'internet, quindi un sito che aveva un portale con dei contenuti, ma che monetizzava la sua pubblicità in maniera abbastanza strana, strana come fanno tutti i media, col media appunto, con i banner sul sito eccetera, quindi non era un grande business. L'intuizione che... Quant'è che l'ha pagato Excite? Come? Quant'è che l'ha pagato, si può dire? 2 milioni e 7 per tutto Excite Europa, che aveva 5 milioni di fatturato e... faceva già 4 milioni di utili e l'idea di avere davanti un colosso come Google, no, noi ma è un altro mondo, è un altro mondo. Noi surfiamo sull'onda di Google. Spiego in due parole quello che facciamo. Noi oggi noi analizziamo cosa la gente cerca nei vari paesi tramite un algoritmo nostro, capiamo quindi quali sono i bisogni dei consumatori e andiamo a creare quello che si chiama contenuto on demand. Su internet ci sono due tipi di contenuto: quello che uno riceve, che è un po' come nei media tradizionali, come la radio, la televisione, la stampa, io ricevo un'informazione, e l'altro tipo di contenuto è quello che uno cerca. Allora, il 70% della consumazione, del consumo di contenuto online è fatto sul contenuto ricercato, quindi cerco un'informazione. Io sono lì, non do un'informazione dall'alto, ma cerco un'informazione, do la risposta che l'utente cerca. Quindi noi andiamo a analizzare cosa gli utenti cercano e creiamo contenuti ad hoc sui viaggi, sulla finanza, sullo shopping. Cerchiamo di intermediare quello che è il bisogno del consumatore dandogli un'informazione specifica. Mi raccontava per esempio che avete anche un modello simile a Wikipedia in un certo senso, cioè avete una rete di collaboratori che contribuiscono poi a pubblicare contenuti, a fornire contenuti. Corretto? Che su Wikipedia sono volontari, penso che invece il signor Ascagni li paghi, no? Sì. Assolutamente, sono tutte persone che sono remunerate per il lavoro, andiamo a analizzare, abbiamo migliaia di persone che lavorano a casa, che però andiamo a analizzare quali sono le loro competenze, le loro specificità, quindi una persona è più esperta di viaggi, che è più appassionata di Macintosh o qualunque cosa, e andiamo quindi a creare poi, li facciamo gestire alcuni siti specializzati su questo, e oggi abbiamo tre linee di prodotti media. Uno è Excite, che oggi è un portale piuttosto di entertainment, poi abbiamo quello che si chiamano i better deals, i migliori offerte, che sono proprio delle guide shopping, quindi non so, migliori offerte Maldive, meglio off piscine e così via. E il terzo sono il nano publishing. Il nano publishing sono dei blog verticali su argomenti specifici. Ecco, il nano publishing sta risentendo dei social network. Un dibattito che c'è in questo momento è: i social network attirano tutta l'attenzione. Però spiega cos'è il nano publishing, altrimenti non c'è. Nano publishing sono dei blog verticali su argomento specifico. Quindi un blog sul Macintosh piuttosto che sul BlackBerry, piuttosto che sui viaggi in Tanzania o quello che vogliamo. Quindi sono dei blog molto specializzati dove delle persone molto competenti raccontano a disposizione la propria esperienza. Esatto. C'è adesso un dibattito, ecco, si dice i social network attirano tutta l'attenzione delle persone, cioè se io devo scrivere su internet preferisco farlo sul social network piuttosto che su blog. È vera questa cosa? Se ne risente oppure si stanno cercando delle alternative? Allora, innanzitutto il nano publishing è assolutamente veicolabile attraverso social network, quindi comunque una buona parte del traffico riceviamo, la riceviamo grazie alla diffusione del contenuto anche su Facebook e gli altri social network. Ma dall'altro lato questo tipo di contenuto è sempre un contenuto on demand, quindi vuol dire che l'utente cerca informazioni sul Macintosh, sui motori di ricerca, e quando ricerca troverà un nostro contenuto. Se il motore di ricerca giudica che il mio contenuto è un contenuto di valore, lo mette in alto rispetto agli altri e quindi io riceverò più traffico. Bisogna partire più che altro dal concetto che su internet gli utenti spontanei, cioè che vanno direttamente sul proprio sito, sono pochissimi, saranno il 10%, il 20%, l'80-90% deve venire da quelle che sono le piattaforme. Le piattaforme sono cosa? Google, motore di ricerca, è una piattaforma per quello che è la parte ricerca. Facebook è una piattaforma perché l'utente sta lì e vede le informazioni degli altri, magari le ricerca ed entra. Quindi è da quel tipo di piattaforma che deve arrivare il traffico, non è un'utenza spontanea. Ecco, c'è una cosa, ma non fa un po' il fatto che questo però è un altro argomento, insomma le piattaforme stanno diventando, forse è anche normale che sia così perché succede anche nel mondo fisico, però insomma è vero che la maggior parte del pubblico viene intercettato da Google, lo ha detto lei giustamente, da Facebook, da altri due o tre social network, Twitter adesso c'è, ma insomma è proporzionalmente più debole rispetto a Facebook. Tutto questo a un operatore come voi fa gioco o è un problema, nel senso che di fatto poi uno non sente, potrebbe non sentire neanche l'esigenza di allontanarsi da Facebook? Io vedo le nuovissime generazioni, che ragazzini, restano nello stesso ambiente e non si come in un acquario in un certo senso. Paradossalmente asfittico, nel senso che paradossalmente i nuovi che entrano sulla rete poi di fatto hanno tre luoghi sicuri in cui che ritengono affidabili, che ritengono certi, insomma, e da lì non si muovono. Uno di questi è sicuramente Google. Questo è un tema importante per chi come lei vuole stare sulla rete, vuole fare business e quindi vuole provare a dare valore aggiunto. Assolutamente, per noi è un vantaggio, nel senso che le relazioni che abbiamo con questi player sono molto forti, siamo da un lato un grande investitore pubblicitario, dall'altro generiamo business per loro. E siamo una realtà che esattamente lavora su quello che sono i contenuti on demand, quindi su quelli che sono i contenuti che la gente cerca, e che in Europa in particolare Google ha il 90% del mercato, sicuramente prendiamo tantissimo traffico da Google. Non temete però Google di essere inghiottiti? Contenuti. Google mangia contenuti. Google vive di contenuti, perché senza contenuti Google sarebbe vuoto. Sì, però Andriaco giustamente gli diceva: lei non teme di essere fagocitato? Perché loro non producono contenuti. Sì, però loro li distribuiscono. Però loro li distribuiscono, quindi loro possono prendere contenuti da tutta internet e poi ridistribuirli attraverso i loro canali. In un certo senso hanno le chiavi della rete. Assolutamente, ma così funziona per scelta degli utenti. Bisogna saper fare un contenuto che risponda alle esigenze dell'utente e che quindi poi risponda alle esigenze di Google. Quindi ritorniamo al tema della qualità, in effetti. Però non ne troviamo uno che parla male di Google. Ma com'è? No, non è vero, se ne parla anche molto male. Io quello che dico sempre è una sola cosa: Google, gli utenti non sono obbligati ad andarci, però ci vanno. Mentre quando si parlava del monopolio di Microsoft, uno lo trovava dentro il PC e quindi... Vabbè, lì c'è poco da fare. Google è la gente che lo sceglie, e quindi che dobbiamo fare? Ma anche perché non ci sono più alternative e persone disposte a investire sui motori di ricerca. Ma come no? Microsoft ci sta investendo tanto, Bing ci prova. Da quest'anno. Grazie Luca Scani. Nova Lab 24. E eccoci, Luca Tremolada, Luca Dello Jacopo, che sta succedendo? Ecco, su Twitter continua la discussione sull'articolo di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione. E che appunto riguarda cara Wikipedia. Vecchia internet, vai sul sito www.verità, questo era il titolo. Sì, e diciamo c'è una persona che su Twitter commenta e dice pare che ultimamente la ragione non sia di questo mondo, perché nell'articolo si solleva appunto il problema del caos che c'è in rete per i commenti. Sì, tra l'altro bisognerebbe dedicare anche, cioè magari più che una trasmissione, un articolo, a ragionare anche sul linguaggio, cioè sulla rete si legge anche un modo di porre i temi che è assolutamente straordinario, perché è diverso da come siamo abituati. Molto diretto, spontaneo. È diretto, spontaneo. Di fatto l'impressione è che si arriva subito a capire quali sono i termini della situazione. Un po' come gli SMS che arrivano in radio. Noi siamo collegati con Alessandro Bruzzi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Fondatore di SS Tariffe. Sentiamo anche per lei una scheda di Luca Dello Jacopo. Su internet non è semplice confrontare i costi di telefonate, SMS e connessioni a internet. Ma per Alessandro Bruzzi è un'opportunità da cogliere. 4 anni fa progetta un sito web in grado di semplificare le scelte degli utenti alle prese con i piani tariffari. Bruzzi è uno studente in economia alla Bocconi. Pensa però che la laurea possa attendere. Così diventa business manager di Skebby, un servizio per inviare messaggi attraverso internet. ma Alessandro Bruzzi non rinuncia al suo progetto. L'anno scorso lancia SOS Tariffe. Con lui lavorano a tempo pieno 3 studenti di informatica. L'ultimo servizio aggiunto a SOS Tariffe permette di confrontare le spese per l'energia elettrica. La laurea in economia adesso non dovrebbe essere lontana. Bruzzi, studi, mi raccomando. Sì. Guardi, una laurea l'ho già presa, mi manca la specialistica che è questione di mesi. Che sono quelle di 3 anni quella che si prende, no? O è cambiato? Esattamente, la prima che ho preso l'anno scorso è stata questa ed è quest'anno, adesso mi manca l'ultima. Sì, ma com'è che si fanno comparando le tariffe? Cioè, com'è che si fanno i soldi comparando le tariffe? Questo me lo sono posto anch'io all'inizio, perché all'inizio è nata come un servizio all'unico scopo di fornire informazioni utili, che poi torniamo sempre anche al tema di prima, di filtrare le informazioni. Dopodiché ci siamo resi conto che quindi veicolando le informazioni giuste i consumatori potevano scegliere e le aziende comunque ottenevano clienti gratuitamente, e quindi è un nuovo canale per le aziende di acquisire clienti, ma clienti consapevoli, e quindi non clienti spinti dalla decisione di un banner o di una pubblicità, ma un cliente già contento. Quindi insomma, da grande l'obiettivo è quello di spacciare clienti alle grandi aziende. L'ho detta brutta. Di rendere, nel senso di ottimizzare il processo di scelta, non è più l'azienda che va a prendere i suoi clienti. Ecco, ottimizzare il processo di scelta è molto d'economia, molto d'aula di economia, va benissimo. Sì, l'idea è un po' quella, ecco. Ecco, ma innanzitutto lei quanti anni ha? Io 23, da poco compiuti. Ecco, perché le tariffe? Perché è la cosa che in Italia, forse il mercato italiano è quello più complesso e più poco trasparente rispetto al mercato, prendiamo UK piuttosto che Germania, piuttosto che Stati Uniti. Quindi l'esigenza era comunque forte e la vediamo da 2 cose. La prima, che comunque non è un mercato di nicchia, perché tutti i giorni vediamo in televisione che si fanno la battaglia a spot da milioni di euro di budget pubblicitario. La seconda, perché su internet c'è un sacco di forum di informazioni degli utenti che si consigliano tra di loro su quale è meglio. Ecco, io ho provato a usare il sito perché dovevo comprare una chiavetta per connettermi a internet. Ma questo è vero? O l'hai... No, è vero, okay, la dovevo comprare. Non so mai con te se fidarmi, stai dicendo, vabbè, vai. No, è davvero. E l'avevo provato qualche tempo fa. E ecco, quando sono arrivato alla voce tariffazione, però, c'è scritto a tempo oppure a volume. Io però cercavo un tipo di tariffa che è quella che viene chiamata la tariffa flat, cioè si paga una certa quota e poi si naviga. In questo caso, che tipo di tariffa sarebbe? A tempo oppure a volume? Ma una tariffa flat può essere sia a tempo sia a volume. Se un operatore ti dice puoi navigare per un tot di mega di traffico, quindi illimitato, per un tot di ore illimitato. Il problema è che comunque in Italia, lasceremo a breve, penso questa settimana o la prossima anche al Corriere, uno studio sulle tariffe dati che abbiamo ultimato, che indica che in Italia non c'è una vera tariffazione flat, perché comunque ancora le reti non lo permettono, non è supportata la banda. Ah, beh, questo è interessante. Chi è che la rilasciate? Noi la rilasciamo noi, adesso dovrebbe essere pubblicata sul Corriere della Sera. Ecco, quali sono le fonti che avete utilizzato però per questo studio? Avete chiesto a ogni società telefonica di spiegarvi qual è il tipo di struttura, di infrastruttura che dedicano al traffico dati sul cellulare? Sì e no, nel senso la gran parte delle informazioni ci è stata fornita e ci è stata spiegata da Stefano Quintarelli. L'altra parte, che è appunto un imprenditore del web ed è stato uno dei primi a lanciare internet commerciale, è un opinionista e anche una firma di Nova. Sì, è un guru dell'internet italiano, chiamiamolo, ecco. E quindi insomma, vi ha dato una mano lui a mettere ordine, a strutturare un po' i dati sul lato tecnico, sì. Ecco, mentre sull'altro lato, insomma, poi vedremo un attimino che conclusioni siete arrivati. Io ti auguro in bocca al lupo. Grazie. E ti ringrazio. Grazie. E però volevo dire una cosa a dello Iaco, anche se agli ascoltatori, perché domani di che cosa ci occupiamo? Domani vi raccontiamo gli aspetti più noti e meno noti di Wikipedia. Scendiamo a fondo per capire come viene costruita Wikipedia, chi se ne occupa, anche come si fa proprio a scrivere una voce su Wikipedia. Anche perché Wikipedia è oggi oggetto di discussione ed è stata anche citata nell'articolo da cui siamo partiti all'inizio della puntata, nel senso che viene sicuramente il primo risultato su Google, sui più importanti motori di ricerca. Dentro però, insomma, la garanzia di qualità oggi è un po' in discussione, anche perché un po' di volontari, sono le notizie delle ultime settimane, hanno cominciato a lasciare la barca, anche perché il modello di business comincia a imbarcare un po' di acqua. E poi il gruppo storico è stanco e sta cercando, ecco, di affrontare queste emergenze che diventano sempre più numerose e diciamo sorgono in diverse parti del mondo. Per cui, quindi, nel momento in cui Wikipedia diventa mainstream, diventa veramente l'enciclopedia a cui tutti guardiamo in un certo senso, insomma, sta succedendo qualche cosa al loro interno. Noi andremo a capire domani tutto ciò. Ora salutiamo gli ospiti che sono intervenuti. Io saluto Luca dello Iacovo e diamo la linea alle news. L'Italia conferma la passione nazionale per i cellulari. Le chiacchierate al telefono sono quasi raddoppiate in 5 anni, passando da 52 miliardi di minuti nel 2003 a 97 miliardi nel 2008. Ogni persona ha in media un cellulare e mezzo. Il numero di carte SIM in circolazione è aumentato del 58% dal 2003. Sono dati elaborati dall'Agenzia inglese per le telecomunicazioni, la Ofcom. Diminuiscono invece le comunicazioni su telefonia fissa. Ma non sono tutti italiani i primati tra le nazioni prese in esame dalla ricerca di Ofcom. Il telefono fisso è usato da 65 persone su 100 in Germania e la telefonia mobile non è un successo in Canada. Parlano al cellulare soltanto 10 persone su 100. La parola del decennio è Google. A scegliere di assegnare il podio al motore di ricerca è stata la American Dialect Society, una prestigiosa associazione di linguisti degli Stati Uniti. Le classifiche globali per il 2009, invece, hanno avuto un risultato differente. Secondo le rilevazioni dell'organizzazione Global Award Monitor, ha trionfato Twitter, il microblog con 70 milioni di iscritti nel mondo. Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha conquistato il secondo podio nella classifica delle parole più utilizzate su Internet. In terza posizione, il virus dell'influenza suina, H1N1. Una dichiarazione di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, fa discutere su Internet. «So che gli utenti non vogliono la privacy», ha affermato l'ex studente di Harvard in un'intervista per il portale TechCrunch. Zuckerberg, inoltre, ha anche dichiarato che se dovesse ripartire con Facebook, renderebbe pubbliche le pagine degli utenti. Un mese fa tutti gli iscritti al social network hanno dovuto scegliere se cambiare le impostazioni per la privacy, una mossa che ha suscitato non poco dibattito sul web. Facebook è la principale rete sociale online in Europa e Stati Uniti. Scienza. 3 meteoriti marziani trovati tempo fa in Antartide potrebbero fornire entro l'anno la prova definitiva della passata esistenza di forme di vita su Marte. È quanto emerge dall'inchiesta pubblicata da un sito statunitense vicino alla NASA. In una prima pubblicazione, del novembre scorso, si parlava della possibile testimonianza di forme di vita nel meteorite Ellen Hills, scoperto nel 1992 in Antartide. Ad attrarre l'attenzione sui 3 meteoriti sono strutture che future analisi potrebbero rivelare essere dei biomorfi, una sorta di fossili di microorganismi vissuti in un lontano passato sul pianeta rosso. Energia. Sempre più ecologica l'energia elettrica del nostro paese. Anche nel 2009, infatti, in Italia è aumentata la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le prime stime di fine anno, elaborate dal Dipartimento Energia del Ministero dello Sviluppo Economico, hanno messo in evidenza una maggior produzione di elettricità da fonti rinnovabili, con un incremento del 13% rispetto al 2008. Si è così passati da 58,16 terawattora registrati a fine 2008 a circa 66 terawattora stimati a fine 2009.